Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Una sanità più efficace, più efficiente, più trasparente, dove c'è meno politica e più management, più controlli e nello stesso momento mantenere un'efficienza del sistema finanziario che ci faccia tenere i conti in equilibrio e non esplodere la spesa pubblica. Il servizio sanitario, che ha un sistema regolatorio così forte, si trova a dover fronteggiare un'ipotesi probabile che può verificarsi di cartello. Cioè sono farmaci che sono prescritti per patologie diverse per quelle per cui sono stati registrati. Alla luce di quello che sta accadendo, abbiamo deciso di reintervenire sulla materia. Ministro Beatrice Lorenzin, buongiorno. Dunque, buongiorno. Due medicine simili con prezzi completamente diversi. Di questo si è discusso, si è trattato. Ma sono omologhi questi due farmaci che sono una bufera oppure no? Questi due farmaci sono simili, ma ovviamente non sono identici, perché un farmaco che è stato realizzato per curare il tumore e poi iniettarlo negli occhi può avere degli effetti collaterali, e questa è la questione che ha fatto nascere la vicenda tra Roche e Novartis. Ecco, ma con il vostro provvedimento, casi così in futuro saranno ancora possibili? No. Perché? No, perché noi diamo la possibilità di intervenire con una sperimentazione indipendente laddove le aziende non lo vogliano fare e dove ci sono i presupposti di un cartello, e quindi in questo caso AIFA può avviare una l'AIFA, che è l'Associazione Italiana del Farmaco, l'Agenzia Italiana del Farmaco, è diciamo la nostra authority, sì, anche se appunto, non è proprio un'authority, sa. Che deve disciplinare non solo il prezzo, ma anche la, diciamo, l'appropriatezza delle prescrizioni di alcuni farmaci, cioè li mette sul mercato in Italia. E quindi chi non ci sta subisce questa, come dire, questa onta in qualche modo? Beh, ci sono due livelli. Abbiamo studiato un'ipotesi proprio nel caso di cartello, sì. E quindi in quel caso si comincia a prescrivere il farmaco, e qualora si registrino degli effetti avversi ovviamente si interrompe. Ci sono dei parametri, questo non avviene per qualsiasi tipo di farmaco, ma ci devono essere già delle indicazioni molto evidenti che c'è un'equivalenza fra due prodotti. Ecco. E poi abbiamo invece disciplinato il caso più generale dell'off-label. 800 24 00 24, lo ricordo, al nostro numero verde 349 238 6666, l'SMS. Ecco, la potenza di pressione però del Big Pharma, diciamo, con le grandi multinazionali farmaceutiche, è enorme. Come si può fare per contenerla? Innanzitutto con la schiena dritta. Nessuno è cattivo. È ovvio che chi vuole sviluppare un grande business ha i propri interessi, chi deve fare le regole deve essere autonomo e indipendente, e i sistemi di controllo devono essere trasparenti e quindi garantire un accesso ai dati, e il regolatore e il legislatore deve avere l'equilibrio di tenere gli interessi in campo. Ecco, sono da una parte quello dell'industria, ma prima di tutto quello dei pazienti. Appunto, però con le competenze sulla sanità, che sono praticamente affidate sostanzialmente quasi completamente alle regioni. Ecco, non è più difficile ancora questo controllo per via della frammentazione? Ne abbiamo avuto una tale quantità di casi che fanno venire questo dubbio, anzi quasi una certezza. Io credo che questa frammentazione, soprattutto dal punto di vista farmaceutico, abbia creato grande confusione. A volte e non solo confusione. Sì, a volte prevalgono le ragioni del prezzo, e altre volte invece prevalgono ragioni più burocratiche che poi ostacolano il fatto di fare una politica farmaceutica italiana. Lei si immagini che in questo stesso momento alcuni farmaci non sono disponibili in alcune parti del territorio, quindi io credo che su questo bisognerebbe ricominciare a ragionare in termini nazionali e non regionali. E cioè, quindi sarebbe meglio, in qualche modo lei sta dicendo, centralizzare per resistere meglio a queste pressioni che localmente sono più forti. Non soltanto per questo, ma anche perché noi abbiamo bisogno di una strategia diversa. A brevissimo arriveranno sul mercato i super farmaci, cioè farmaci assolutamente innovativi che ci permetteranno di eradicare malattie che oggi sembrano ancora incurabili, ma che costano tantissimo. prossimo, quindi ci sarà la necessità di fare una politica nazionale sull'accesso a questi farmaci. Ecco, lei ha approvato già i costi standard a proposito di centralizzazione per l'acquisto dei materiali sanitari. Ecco, da quando è valido? È già valido ed è per tutta la spesa ospedaliera, non soltanto per l'acquisto dei beni e servizi, e noi abbiamo già fatto il riparto del fondo del 2013, cioè la distribuzione dei 109 miliardi del sistema sanitario nazionale con i costi standard. Possiamo dire che i costi standard sono a regime e noi prevediamo in 4-5 anni di avere un notevole recupero di risorse. Senta, però l'Europa ci dice che per incassare una fattura a Catanzaro ci vogliono 1337 giorni. Nel frattempo naturalmente si fallisce. Allora, vabbè, belle parole, però poi quando andiamo al dunque il problema è ben diverso. Ma questo è il grande tema del rapporto tra lo Stato e i suoi fornitori, tra le regioni e i propri fornitori. Noi dobbiamo entrare nei parametri e permettere il pagamento delle fatture in 60 giorni. Questo ci aiuta a controllare il prezzo da una parte e dall'altra anche a garantire un principio di equità, perché noi pretendiamo le tasse dei cittadini, giustamente, ma lo Stato deve poi comportarsi in modo equo. Sì, però in Italia sono solo 5 le aziende sanitarie che rispettano le scadenze per i pagamenti, un grandissimo problema quello di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. A Pavia, Milano, Trento, in Friuli, Venezia Giulia, poco altro. Ma gli altri quando si uniformeranno sulla tempistica? Oggi con i decreti sul pagamento della pubblica amministrazione sono costretti a farlo tutto in brevissimo tempo. Diciamo che ci sono 5 aziende molto puntuali, 5 regioni virtuose e tutto il resto dell'Italia che va rimesso in piedi. Ma va rimesso in piedi in che tempi? Perché lì c'è anche un rapporto col Ministero della Semplificazione, no? Credo. Anche con il MEF, diciamo che i tre attori sono soprattutto il Ministero dell'Economia, il Ministero della Salute e soprattutto sempre l'autonomia delle regioni. Noi abbiamo necessità di rimettere in piedi il sistema sanitario in 2 o 3 anni, quantomeno dare regole per tutti, e questo ci permetterà poi di intervenire sui territori. Ma tutti devono accettare diversi modelli di controllo. Il vero problema della sanità italiana è la governance e i manager. Questo dove non c'è buoni manager, in pochi mesi si rimette in piedi un'azienda che ha perso milioni di euro. Sì, ma la scelta dei buoni manager è un problema, si è rivelata un grande problema quasi sempre, mi pare. Ma io direi che proprio perché non ha prevalso la ricerca della performance. Ho chiesto al ministro Madia di cominciare a studiare insieme un nuovo modo di selezione. Senta, parliamo di spending review, dopo i tagli alla sanità del passato. Cottarelli, quanti ne vuole da lei di altri? Si leggono cifre diverse. Beh, diciamo che in questi casi si danno i numeri all'otto. Sì, infatti, più o meno. Numero dà all'otto? Io do un numero diverso. Sì. Dico, i tagli lineari in questo momento alla sanità non solo non servono, ma fanno male. Perché invece fanno male sempre i tagli lineari, perché è un non taglio, il taglio lineare. Infatti, noi abbiamo avuto 25 miliardi in meno in questi anni, sì. E ancora abbiamo in atto la cura Monti. Oggi e la cura Cottarelli adesso cosa vi porta? La cura Cottarelli noi la stiamo cercando di portare in un altro tema, e cioè? Renzi ha detto di sì, e cioè risparmiamo all'interno con tagli non lineari ma con risparmi proprio quantificati. Con tagli mirati, insomma, con mirati scelte, si chiamano scelte i tagli non lineari. Bravo. E poi da reinvestire invece nel sistema sanitario stesso, che oggi ha bisogno di investimenti in infrastrutture, in tecnologie e in risorse umane. Tutto il tema dei nuovi farmaci di cui parlavo prima, io penso che noi possiamo recuperare 10 miliardi in 3 anni. Quindi Cottarelli è soddisfatto di lei, sa dove prenderli questi 10 miliardi? Io li vorrei però reinvestire nel sistema. Ti immagini, perché sennò è sempre un circuito vizioso, ci tolgono 3-4 miliardi ma poi ce ne devono ridare 4-5 un anno dopo, perché c'è un settore che crolla. Ecco, ma allora, se... No, no, prego, scusi. No, è meglio fare una politica, come dice lei, di scelte, di pianificazione, di programmazione, ma con dei controlli veri. Cioè, bisogna che gli attori si autodeterminano a fare le cose che dicono. Ecco, ma se la sanità migliorerà in questa direzione, ha calcolato quali saranno le entrate per lo Stato in virtù del potere, del suo poter, saper stare sul mercato? Poi in realtà siamo in Europa, se vengono a curare qui, se trovano efficienza. Noi siamo un paese molto strano, perché ovviamente fino adesso abbiamo parlato delle cose che non vanno. Immaginiamo invece che c'è tutta una parte d'Italia in cui si sviluppa una sanità di grande eccellenza, anche di capacità di accoglienza ad altissimo livello, e noi dobbiamo con la transfrontaliera, cioè con la mobilità dei pazienti, attrarre in Italia pazienti dal resto d'Europa e sviluppare intorno a questo un sistema. Sì. Lei si immagini che intorno al sistema della salute si produce l'11% del prodotto interno lordo del paese. E quindi ci può essere un rientro per lo Stato. E certo, senta, e poi anche un'efficienza che ci fa pagare a tutti meno tasse. Esatto. Perché nelle regioni in piano di rientro c'è l'addizionale IRPEF che vale parecchi miliardi. Senta, però l'Italia è il secondo paese più vecchio del mondo, il 20% della popolazione ultra 65enne con già 15.000 centenari. Ecco, i medicinali che sono in commercio sono testati al massimo sui settantenni. Questo vuol dire che per tutte le altre persone praticamente sono cose inutili, effetti placebo nel migliore dei casi. No, per fortuna non è così, però dobbiamo capire quello che sta accadendo. Però è nel vero questo, paese. Questo è vero. Sì, quello sì, è che vero, dobbiamo... è vero. Però quindi prima se li testano su settantenni, al massimo sui settantenni, chi è un po' più grande, forse quei farmaci non gli servono. C'è una ricerca sul campo che è continua, come avviene con i farmaci off label di cui parlavamo prima, però questo noi deve far capire che cosa sta accadendo. Noi abbiamo una società sempre più anziana, appunto. E gli anziani bisogna farsi carico, quindi bisogna trasformare il sistema sanitario, che non è solo erogazione di prestazioni, ma anche assistenza, e quindi sul tema dell'assistenza infatti, noi abbiamo una lacuna enorme. Io vorrei farle proprio una domanda sull'assistenza, che è praticamente inesistente in Italia, riguarda l'1% degli ultrasessantenni disabili rispetto al 18% per fare un confronto del nord Europa. Quindi l'assistenza in sostanza pesa sulle famiglie e soprattutto sul sistema ospedaliero. Allora siamo da capo a 12. Esatto. Il tema è sviluppare da una parte l'ospedale come luogo dove si curano le acuzie, cioè i casi gravi, e il territorio in cui si tiene in carico il paziente, lo si aiuta a casa. Per fare questo, ecco, ci ma vuole voi, però, lei dice delle cose bellissime, ma queste cose bellissime le farete? Allora, io per quanto mi riguarda... Cioè, il tema anziani, devo dire la verità, non gliel'ho sentito trattare mai ancora. In realtà... che ho tratto sempre nella mia mente, perché ogni volta nella che sua mente, spiego ma nella mente e nelle azioni, nel momento in cui io spiego ai miei interlocutori che noi andiamo verso una popolazione anziana e in cui dobbiamo trasformare l'assistenza sanitaria per andare incontro agli anziani, questo vuol dire averli al centro. Guardi, al centro come tipo, per esempio, dare un contributo economico a chi si prende in cura un anziano disabile, come fanno in Inghilterra. È un obiettivo suo, concreto, si può dire la Lorenzin va verso questa direzione? Si può dire? Noi è la notizia per i giornali di domani, questa? Perché noi facciamo non molto c'è di notizia. Più. Gli intesi da questo punto di vista sono indietro rispetto a noi, perché noi non guardiamo le cose che noi facciamo, noi garantiamo un'assistenza sanitaria di a livello altissimo, pagando molto di meno rispetto agli inglesi. Noi abbiamo inventato le misericordie, ricordiamocelo, quando Cameron ha parlato della Big Society, noi abbiamo la misericordia già da 600 anni. Noi abbiamo un sistema di volontariato... Quindi non abbiamo niente da imparare, va bene così per gli anziani? No, noi dobbiamo fare molto di più, però dobbiamo anche percorrere una strada che abbiamo già tracciato. No, non mi ha detto qual è quella che vuole percorrere esattamente. Adesso glielo dico io. Grazie, me lo dica. Tenendo conto che le ricordo una cosa, che purtroppo in Italia abbiamo fatto questa cosa folle, che abbiamo diviso l'assistenza sanitaria dall'assistenza territoriale. Quindi io non ho potere sugli assessori ai servizi sociali. Quindi il ministero non serve a niente, diciamo, belle parole ma non serve a niente. Il ministero serve sulla prestazione sanitaria. Nello stesso momento noi spingiamo perché se noi potenziamo l'assistenza sul territorio, io riesco a togliere i pazienti dall'ospedale che costano da 2 a 6 mila euro al giorno, portarli in un'assistenza domiciliare dove vanno da 200 a 800 euro. Senta, ministro, considerando che fra 30 anni avrò il 60% della popolazione ultra 60 anni, appunto, io di questo stavo parlando. Mi sembra anche a me che bisognerebbe avere delle decisioni chiare, veloci ed efficaci, perché sono già lì gli anzianotti. Sono già lì e tra l'altro con una famiglia diversa, perché appunto, oggi le persone anziane hanno i figli. Fra 30 anni da mantenere, hanno i figli da mantenere. Senta questa storia. Ma fra 30 anni non ci sarà la famiglia come adesso. Questo lo vedremo fra 30 anni. Senta, ministro, senta questa possiamo storia. Possiamo già vedere da quanti sono le persone nate oggi. Certo, senta la storia di questo giovane medico, uno come tanti, che lavora a Torino al Sant'Anna, una storia di eccellenza frustrata, come tante altre. Pietro Ferrando. Quanti anni ha studiato, dottor Ferrando, per poter operare? In totale 11 anni e in più sto facendo un dottorato che è l'apice della formazione, che durerà ulteriori 4 anni e sono attualmente al mio terzo anno. Senta, ma lei ha avuto delle esperienze all'estero oppure è sempre rimasto in Italia? Io mi sono mosso dall'Italia quando ancora ero in specialità. E dove è stato? Sono stato a Los Angeles prima per un mese, poi sono stato per un anno a Londra, in cui ho frequentato in 3 di ospedali diversi, e poi sono tornato, perché mentre lì ho vinto un internato, a Washington per ulteriori 3 mesi. Quindi è stato a Los Angeles, a Londra e a Washington. Perché è tornato in Italia? Sono tornato perché io credo nel mio paese e credo che un paese che abbia speso 11 anni per formare un ultra specialista possa avere qualcosa in cambio, e io ci terrei a lavorare nel mio paese per ridare quello che è stata la mia formazione. E perché usa il condizionale ci terrei? Perché oggi come va? Perché oggi il nostro paese non permette a noi giovani di lavorare e di fare il nostro lavoro. Ma perché lei non ha un contratto? Io ho un contratto a tempo determinato ormai da 2 anni a questa parte, che mi permette di fare il mio lavoro ma non mi permette una prospettiva. Quindi lei è entrato a lavorare in ospedale in Italia con un contratto a tempo determinato, giusto? Che durava un anno. E poi dopo il primo anno com'è andata? Dopo il primo anno mi è stato detto che probabilmente non mi sarebbe stato rinnovato il contratto, e così è stato fino a poco tempo prima della scadenza, e mi è stato rinnovato per tempi sempre brevissimi. Per brevissimi si intende mesi? Si intende mesi. Quante volte le è stato rinnovato il contratto? In totale 2 rinnovi in corso d'opera e un nuovo bando di contratto adesso a febbraio, che dovrebbe durare per un anno. Quindi 3 rinnovi in quanti anni di lavoro? 2 anni. È sempre rimasto uguale lo stipendio? Assolutamente no, mi è stato decurtato al primo rinnovo del 20% e al secondo rinnovo del 6%. Quindi un totale del 26% in meno. Ecco, l'intervista era di Sara Tardelli. Ministro, sono tanti in questa condizione, è uno specializzato che si occupa di tumore al seno, quindi di alta qualità. Che cosa risponde a questo ragazzo? Beh, innanzitutto che ha ragione, e che il tema della precarizzazione del sistema della salute è stato legato purtroppo agli sperperi avvenuti negli scorsi anni nel sistema sanitario, che ha determinato soprattutto nelle regioni in pieno di rientro il blocco del turnover, dove noi abbiamo non solo questa situazione ma cose ancora più gravi, e per esempio la metà dei pronti soccorso sono sotto organico in Italia. Il ragionamento del patto della salute, quando io chiedo di recuperare delle risorse per poter rimuovere il blocco del turnover e razionalizzare il personale sia nella mobilità in Italia ma anche e soprattutto stabilizzandoli, dandogli degli stipendi. Ministro, c'è Mario Seghi che vuole farle una domanda. Buongiorno. Allora, buongiorno. Recuperare risorse, ma c'è una spesa che è oltre 110 miliardi. Cioè, dove recuperare risorse? Aggiuntive o dentro quel perimetro che in realtà doveva essere tagliato e poi non è stato tagliato? Punto di domanda. Innanzitutto 110 miliardi è l'ammontare complessivo, sì, del Fondo Sanitario Nazionale, certo, e che è una cifra enorme, ma siamo ben al di sotto della media degli altri paesi europei. 9,2 contro 9,3. Rispetto ai nostri, diciamo, come dire, adeguatamente al nostro livello scientifico, penso alla Germania, all'Inghilterra, alla Francia, agli Stati Uniti, al Canada e via dicendo. Io dico di recuperarli dentro questo perimetro. Cioè, vabbè, lei quindi a spesa invariata l'ha detto. Ma certo, spesa alta, ma il recupero interno. Buttafuoco, una domanda prima di chiudere. Se i problemi della sanità, il manager della sanità, perché non si intesta una battaglia e restituisce i medici agli ospedali, alla guida delle cosiddette aziende ospedaliere? Mi sembra che si ripeta lo stesso errore della scuola, dove una volta c'erano i presidi e ora ci sono i dirigenti scolastici. No, questa è una falsa, come dire, un falso mito, e lo dico molto chiaramente. Oggi la gestione delle aziende ospedaliere è una gestione di strutture estremamente complesse, dove quasi tutto il lavoro dal punto di vista manageriale è sul piano finanziario, economico, contabile e sui processi di lavoro. Il tema e quindi è che lei dice ci vogliono i manager. I manager devono fare i master, e forse dei bravi professori potrebbero unire le due cose. Senta, ministro, ci sono dei casi in cui questo funziona, è capitato, molto bene. No, perché capita anche nelle aziende editoriali questo problema. Senta, un'ultimissima domanda, ministro. Il sottosegretario Del Rio ha detto che i ministri andranno a casa se non raggiungeranno gli obiettivi. Mi dice l'obiettivo in un secondo, il suo obiettivo? Patto della salute, piano prevenzione nazionale, perché prevenire vuol dire curare e soprattutto spendere molto di meno nel futuro, e una nuova legge sulla ricerca scientifica che sia attrattiva di investimenti nel nostro paese e che aiuti i ricercatori italiani. Se no a casa? Ma certo. Entro quanto tempo? No, mi dica entro quanto tempo questi obiettivi? Allora, io due obiettivi li ho già raggiunti, uno era il costo standard e l'altro... Vabbè, quindi lei è quella che va a casa per ultimo, ho capito. No, ma io, guardi, le posso dire una cosa, se riesco a fare queste cose vale una carriera politica, altro che un ministero. Grazie, buon lavoro, pubblicità. Mix 24. Non dimenticare le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella più del sole calcato. Era una fantasia da lunedì, oggi martedì. Bella più del sole, sono da poche settimane che se n'è andato via Manlio Sgalambro, e quindi mi ricordo il suo meraviglioso libro La morte del sole, e questa canzone cantata da lui ci dà un senso. C'è Viola che ti dà ragione, Pietrangelo. Dice: perché non ci teniamo i medici di valore e precarizziamo i politici? Era un bello, po' quello che giusto. Dicevi al me. Allora, Mario. Vuoi sapere cosa bolle in pentola? Cosa bolle in pentola? Sara Tardelli bolle. No, senti. Non porta la gonna questo. Allora, Crimea, perché? Perché Vladimir Putin ha detto stamattina che l'ingresso della Crimea nella Russia ha un senso. E come dargli torto? Perché, insomma, qua perfino Gorbaciov, ve lo ricordate? Certo. Glasnost, perestroica, ha detto era che... Era l'Obama dell'Unione Sovietica. Non è un complimento. Fu mandato via. Non mi sembra, non lo so. Fece bene per la trasparenza. Molto amato. Glasnost era trasparenza, perestroica erano le riforme. Molto, giusto, amato, per ricordare. Molto amato in Occidente, un po' meno, in Russia. Mentre Putin è molto amato in Russia, al punto che però lo stesso Gorbaciov ha detto, vabbè, ma quello di Khrushchev, dell'era sovietica, di dare all'Ucraina la Crimea, fu un errore colossale, clamoroso, che il referendum ha sanato, per cui giusto che vada di nuovo a casa, cioè ma in intanto Russia. Sara, le quote rosa di oggi non possiamo dimenticarle. No. Con La quota rosa ce lo deve dire. Il Clemente il misericordioso. E la sonarizzazione che ha fatto Domenico Vicinanza dell'universo. Ha ragione, quindi Pietrangelo. Ascoltiamo un po' di immensità. Vabbè, ma che c'è di nuovo in questa cosa? Per carità, va bene tutto. Ma è un déjà vu, senti qua. Incontri ravvicinati del terzo tipo. Te lo ricordi quando arriva? Fatto. Ma scusate, quello ma è un falso, questo è vero. Ma quello era un pezzo straordinario di cinematografia. Tardelli, posso butta dire? Fuoco con quel ditino alzato. Mi sembra. Fallo parlare. La differenza. Si parla una c'è per la stessa volta. Differenza che passa tra il superuomo di Nietzsche e Superman. Meglio Superman. Beh, naturalmente per te, per Sara meglio Superman. Non lo so, lo dice lei. E allora intanto un'altra bolla. Vabbè. Whiskey River, take my mind. Oggi ci sono due bolle alimentari. La prima riguarda il whisky, perché in Tennessee, bel posto dove si fa un grande whisky, c'è una battaglia in corso tra due giganti del settore. Una è ovviamente la Jack Daniels e l'altra è la Diageo, che è il più grande produttore mondiale. La disputa è la seguente: quando un whisky è un Tennessee whisky? E c'è la risposta? Non ancora, c'è una disputa legale in corso. Ovviamente, quelli del Bourbon, cioè quelli del Jack Daniels, vogliono una tirano cosa dalla più. Loro. Io ricordo solo il grande Manlio Scopigno, allenatore del Cagliari dello Scudetto, che soleva dire: diffidate dei barman, non esistono molti tipi di whisky, esistono solo tre tipi di whisky: whisky, il doppio whisky e il triplo whisky. Che c'è, Pietrangelo? No, è quello tu Michele... non bevi whisky. No, ma quello Michele, quello che indovinava tutto. Michele chi? Santoro? No, quello no. Che beveva il whisky lo indovinava. No. Non era quello che beveva il whisky lo indovinava. Tu ti stai confondendo. C'era una famosa pubblicità dove comunque, c'era uno. Facciamo sto salamino. Il salamino di oggi comincia con una musica. Questa di Marinella è la storia vera. Prima o poi, un pezzo comincerà così. Questa di Marinella è la storia vera. Ma intanto, Marinella. Ma intanto, appunto, il nostro Balzac, cioè Carmelo Lo Papa, che si firma Balzac con lo pseudonimo di Carmelo Lo Papa su Repubblica, ha fatto un racconto oggi assolutamente delizioso, perché Silvio Berlusconi è descritto sequestrato nel suo cerchio magico e nulla passa se non attraverso il controllo di Francesca Pascale, la fidanzata, e Maria Rosaria Rossi, senatrice factotum. Ma tutto verte su un fatto: la segretaria ombra di sempre, quella che lo ha accompagnato negli anni della gloria, della fatica e della costruzione dell'impero, ovvero sia Marinella, è stata allontanata da Arcore. È sparita, non si capisce perché, non si riesce a decifrare il motivo di questa fuga, anche perché nel frattempo sono stati allontanati il cuoco Michele, è stato allontanato per il maggiore. Si è stato allontanato a un certo punto. Ha rifatto la squadra. Anche al Milan c'è da rifare la squadra. È così capitò anche Umberto Bossi, vorrei dire. Qualcosina al Milan. E quindi secondo me sono cose nere. Andiamo in Germania. C'è stato l'incontro Renzi-Merkel, ma non lo vogliamo neanche un po' commentare. Grande incontro, grande risultato per Renzi. Ma adesso. Io metto sempre il dito. Fai bene perché così non sovrapponiamo come dice, le voci. Il comandante sottile mi introfilo. Introfilati. E io vorrei dire: siamo passati dall'Oden di Mario Monti ieri. Quel poveretto lì in Germania si è presentato con un cappottino. Faceva freddo, ma il cappottino mi ha ricordato una cosa. Cosa? Posso farvela sentire? Dai. Questo è un inferno. Qua ti mangia pane e veleno. No, ma qua, solo veleno. Concetta, che cosa volevi pendurare? Il soprabito tuo. Pasqua, dimmi una cosa, ma qui dentro c'è il paltò di Napoleone. Che c'entra il paltò di Napoleone? C'è il paltò di quando ho sposato mia moglie Concetta. Lo conosco quel paltò. Se io vado allo chartonier con questo paltò, quello mi piglia a calci. Ah, e invece è andata bene. Bellissima. Avete visto? Ma io ho visto i giornali, televisione, sì, mi sembra che è andata benissimo. Mario se la cava col Financial Times. Sì. Financial. Come dire, quattro fili di tedesco li mando. Sì, è vero. Lui quattro fili tedesco li mando. Per curiosità, sono andato a vedere i giornali tedeschi. Come hanno commentato e raccontato l'arrivo di Matteo Renzi. Bene. Avete presente? Sì, però avete presente quando un vescovo va in visita dal Papa? Mettono nostre informazioni, una cosa piccolina. Vabbè, ma poco ma preciso. Comunque quello sciacque di Herbert. Basta. Comunque, visto che l'hai citato, ti dico che sul Financial Times è uscito un lungo pezzo di analisi. Oddio, fanno parlare Ricolfi, Prodi e Taddei, tutti un po' del giro, diciamo, italiano. Non c'è una grande novità, diciamo che gli concedono il beneficio del dubbio e vedremo che cosa fa. Però già questo positivo di questi tempi. L'unica cosa parla Andrea Bonomi, che è un grande investitore italiano, sì, un grosso fondo di private equity, e annuncia l'apertura di un Ferrari World. Il problema è che non apre in Italia, ma apre in Spagna. Beh, è globalizzato, naturalmente. Però noi ne vorremmo uno bello, grande. Senti, però intanto qui. Oggi Marina Milone ci racconterà la storia del Re di Maggio. Intanto una breve anticipazione nell'intervista di Nicola Caracciolo a Umberto II. Lei non era d'accordo per lasciare Roma. Puntoni lo dice molto, molto, molto chiaramente. Lei lo chiamò nella sua camera, dove lei stava con le braccia conserte, e gli disse appena entrò: secondo me lasciato Roma è stato un grave sbaglio. Aver lasciato Roma in quel modo, sì, può essere uno sbaglio. In quel modo, senza avvisare i ministri. Ecco, quella era l'unica mia... Sì, la cosa che ancora adesso, naturalmente sono convinto che è stato un peccato che i ministri non abbiano avuto la possibilità di... anche loro di raggiungere... il re, oppure di prendere le loro disposizioni. Ecco, questa è un'anticipazione della storia del Re di Maggio che andrà in onda dopo il giornale radio. Intanto il canzoniere di oggi. Sfumata in un residuo di nebbia che non ce la faceva né a dissiparsi né a diventare pioggia, un po' disfatta da un torpido scirocco più atmosfera che vento, assopita in un passato di grandezza e splendore sicuramente anche di immodestia confinante col peccato, la città era piena di attutiti rumori, odori stagnanti nel culmine di una marea pigra. Mix 24. Un grande pezzo, Breakfast in America, Supertramp, meraviglioso, sempre verde, devo dire. Breakfast, la colazione, Giovanni, ma tu sai che costa carissimo. Allora, noi italiani non facciamo la colazione, diciamo, no, di tipo anglosassone, noi spesso un caffè via, giusto, cappuccino e brioche, va bene. Ma se tu fai una colazione all'inglese, diciamo, sì, costa il 25% in più in un anno per effetto della cavalcata pazzesca dei prezzi delle materie prime in agricoltura. Il caffè, il cacao, il latte, il burro. Insomma, non si può più fare colazione. Sta diventando caruccia. E in molti paesi è il pasto principale. È il professor Doglio che va sempre in Inghilterra, sarà poverissimo. Professore, buongiorno. Assolutamente colazioni continentali. Assolutamente. Esatto. Il popolo dei cinque pasti, come diceva lui. Intanto aspettiamo la risposta al canzoniere. Professore, intanto oggi siamo un po' di corsa. Cosa è successo nel mondo dei media questa settimana? Allora, fondamentalmente un paio di cose importanti. Sono usciti i dati dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sui new media e new internet, che dicono che l'85% di chi va in rete in Italia lo fa ormai per guardare video online, soprattutto su YouTube, e questo spiega perché YouTube YouTube ha raccolto un sacco di soldi. Insomma, tante piattaforme di distribuzione, ma i prodotti poi alla fine sono sempre quelli. Senta. Sì, vabbè, questo è un tema pericoloso. Pericoloso, diciamo, ma un po' vero. I contenuti video fanno aumentare il traffico in rete. Certo, il dato naturalmente. Americano dell'anno scorso dice che i 30 milioni di abbonati di Netflix da soli occupano il 32% dell'intero traffico web. E quindi, insomma, si sta creando un pubblico sempre nuovo, più consistente, certo, di fascia giovanile. Che vede in un altro modo... commerciale, insomma. Senta, quindi il target commerciale si sta spostando dalla televisione a internet. Esattamente. Ma per vedere cosa? È interessato alla televisione, quella abbiamo conosciuta. Sì, ma per vedere cosa? Questa è la modalità di fruizione, ma la sostanza... La sostanza è vedere solo un certo tipo di contenuti, tendenzialmente film e serie. Adesso però c'è l'altra novità della settimana, che è il lancio ufficiale da parte di Sky di questo nuovo servizio Sky Online anche in Italia, che offre non solo film e telefilm, ma anche eventi sportivi e news, cioè la televisione. Naturalmente per tutti i dispositivi fissi e mobili, senza bisogno di parabole e di decoder. Non ci sono più astruse formule di abbonamento annuo, semplicemente si paga di mese in mese una cifra variabile tra i 10 e i 20 euro. E questa è un'importante novità, soprattutto in Italia, dove fino adesso si era partita Infinity di Mediaset, ma eravamo ancora nel modello film e telefilm, non so come dire. Vabbè, però insomma, se non si investe nei nuovi contenuti, noi avremo sempre più piattaforme, ma dove più o meno si divideranno i contenuti, noi sempre quelli sono. Insomma, la cosa non importante è che c'è comunque un evidente rischio di farsi del male da soli. In che senso? Molti abbonati ai servizi a pagamento potrebbero decidere di, come dicono gli americani, tagliare la corda, cut the cord, come sta succedendo in quel paese, e di servirsi alla carte e a basso costo, perché questi nuovi abbonamenti, questi nuovi servizi costano veramente poco, 9,90, 10 euro, 10 dollari o 10 euro, quello che sarà, e soprattutto non sei legato all'abbonamento annuo. Certo, naturalmente, scegli a seconda di come ti va il mese. Grazie professore, abbiamo Gianfranco da Roma per la risposta sul canzoniere. Gianfranco, pronto? Sì, buongiorno Tonino. Buongiorno. Allora, buongiorno. Ci dica. Allora, dovrebbe essere anonimo veneziano di Giuseppe Berto. Giusto. Bravo! Bravissimo. Bravissimo. E che Gianfranco, lei cosa fa? Io di mestiere? Faccio il bibliotecario. Ah, dove? A Roma. Ah, quindi legge tanto. No. nel tempo libero. E questa passione per Berto com'è? Per Berti com'è? Oh, guardi, mi è capitato di recente di rivedere il film Anonimo Veneziano. Ecco. Sono andato anche a riprendere il libro e mi è rimasto molto impresso l'incipit, che è molto, molto incisivo, molto forte. Grazie Gianfranco, grazie. Intanto continuiamo a parlare di televisione. Questa sera va in onda la prima delle due puntate della fiction Per amore del mio popolo, che racconta la storia di Don Peppino Diana, interpretato da Alessandro Prezioso, intervistato da Sara Tardelli. Ma tu avevi ancora una bolla, Mario. Io volevo farti sentire una canzone. Sincero. Una canzone e poi Jolly, Sara Tardelli con Preziosi. No? Un po' di buona musica. Vabbè, va bene. Non quella roba vecchia che mettete voi. Questo è il sound della contemporaneità, ragazzi. Stai attento che accanto al vecchio c'è l'eterno, eh? Ah, siamo un pelo e Preziosi. Com'è stato interpretare Don Peppino Diana? L'interpretazione si è basata su un principio fondamentale, quello di non renderlo eccezionale, far capire che la vita sacrificata di Don Diana non è stata eroica, non è stata eccezionale, ma rientrava nella normalità. E tu hai capito da dove nasceva il suo coraggio? Vi rispondo con l'esperienza umana che ho avuto sul set e sulla sceneggiatura. Non si può essere cristiani se si è camorristi. Non si può pensare di essere dei veri cristiani che si uccide. La scelta di Don Diana è stata quella di essere un esempio. Voi avete girato appunto per le strade, ma com'era l'atteggiamento delle persone intorno al set? gente? La maggior parte della gente, devo dire la verità, che ho incrociato e all'interno della lavorazione, fra le comparse speciali che mi raccontavano di essere stati alunni di Don Diano, di aver fatto un viaggio con Don Diano, di averlo semplicemente incontrato tutte le mattine a fare colazione, è stato sempre di grandissima vivacità. Avrò bevuto una media dai tra i 10 e i 20 caffè al giorno, perché era tutto, andiamoci a pigliare un caffè. Però poi c'era la voglia di essere presenti un po' per assistere e rivivere certe situazioni abbastanza eclatanti che si sono vissute a Casale e che la fiction ha riprodotto abbastanza fedelmente, da una parte, e dall'altra la speranza di essere raccontati in maniera meno desolante. E Don Ciotti più volte ha criticato alcune fiction o serie televisive, ad esempio, faccio due nomi, Romanzo Criminale, I Sopranos, perché secondo lui facevano apparire i criminali in realtà come uomini di successo, pieni di soldi, di donne. Tu cosa ne pensi? Pensi che sia un pericolo in questo senso per dei giovani che guardano la televisione? Non credo che filmicamente Il Romanzo Criminale sia un prodotto da non considerare, perché sia molto interessante. Sì. E non so neanche quanto sia giusto considerarlo dal punto di vista etico, considerando che è una ricostruzione di fantasia. Certo è che legittimare il male in questo momento storico attraverso un'insistenza, perché poi parliamo dell'insistenza seriale, sì, che certo, ci fa vedere quale simpatia si può provocare un protagonista dei Soprano o il Freddo con emulazioni incontrollabili. Però credo che questo non dipenda dalle fiction, ma dipende da quanto si riesce ad insegnare all'interno delle famiglie l'educazione a vedere la televisione, a seguire e a capire con senso critico quello che si vede. Non credo che sia colpa delle fiction. Grazie. Grazie a te, Sara. Ecco, dopo la pubblicità, Marina Milone ci racconta la storia del Re di Maggio di Re Umberto.